allora si fa ciù che ciù che ciù. Sì che ti ascolto, dimmi, dimmi. Buonasera. Buonasera. Sì, sì, Eugenio. Eugenio. Via, via, ho capito, ho capito. Aspetta, aspetta, sto rientrando. Beh, come mi ascolti con questo microfono con tuo adesso? Meglio o peggio? Meglio o peggio? Allora, apposta adesso. Ho cambiato la capsula, ed è perfetta. È perfetta. È anche chiara, vedi tu. Chiara, gli altri, mi ascoltano bene. Grazie a Dio. Stamattina ho fatto la prova, nessuno si è lamentato. Sì, va bene, Sono contento. Adesso attacco questo, e attacco l'altro che è simile al tuo. Aspetta un secondo, Questo è l'altro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lo sai perché è più forte? Perché il foro naturale della capsula di quel microfono che c'hai tu, c'è il foro piccolo, io devo allargare perché se... Ah, fa cuffia. Sta fischiata. Se io stacco la capsula fuori, tu mi senti uguale a questo, tale uguale. Sì, esatto, c'è il foro più piccolo, sì. Perché ieri sera quando ho fatto la prova era tale uguale a questa qua, staccando la capsula, mettendola fuori, è tutta un'altra cosa. Ho già fatto la prova ieri, ripeto a te, se vuoi faccio il foro più grande e amplifica come questo qua, anzi prima di fare il foro più grande ti faccio sentire la capsula fuori dalla sua sede del microfono, come tu il via se farlo oppure no, il microfono è tuo. Ecco, allora, se aspetti 5 minuti, smonto un attimino il microfono, ti fa sentire la capsula fuori dalla sede della capsula sua. E vedrai come cambia la cosa. 2 minuti, dammi, e smonto, come si chiama, te lo faccio sentire. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Guarda un po' com'è adesso la modulazione. Va bene o peggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Vabbè, ce l'ecco adesso, Allora. Guarda un po', guarda un po'. Adesso 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Ciucucciù, così a zero e così effetto reverbero. Come va? Guarda un po' se ha mettato qualcosa oppure no. Ok, già come stavo dicendo io allora. C'è il tappo, come si chiama, ecco quanto pompa adesso. 1, 3, 4, 5, 6, vabbè, c'è l'effetto reverbero naturalmente, però se tolgo l'effetto reverbero così la radio aumentata. Allora, se io metto, aspetta, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, ok, cazzo, Simola, figurati tu, che parla, va, niente, e lei in salone, devi, io sono in camera mia, quindi, c'ho ragione io, Senti. Beh, vado a tagliare il foro. Non devo fare altro, vado a tagliare il foro del microfono. Interno come si chiama vabbè, quello di plastica già lo sai che tu. Io sono vicino alla capsula, figurati tu. E sono 20 centimetri. Aspetta un secondo. Guarda, ti faccio sentire anche la birra. Senti, io sono dove c'è il baracchino, e la terapia dove c'è il tavolo, guarda. Senti, adesso tipo troppo forte nell'allenatore qua. Si sente? La capsula comunque è quella del metro 100. Io l'ho messa io ieri sera. Ed è chiara, molto più chiara di quella che avevo messo con la verde, quindi va bene. L'unica cosa che devo allargare è il foro, in modo da avere più sensibilità. Comunque va bene, è perfetta, cioè è uscendo così come sono adesso, che mette di fronte a me, a 20 centimetri. Non avete male gli assistenti. Ok, quindi io va bene. Veloce. Qua, siamo partiti vuoto addirittura. Fino a voglia del pompa. Già è quello. Già va bene, la capsula è perfetta. Cavarocci. Prima te la modifica adesso, te la con il foro e poi la profi. Una volta poi prendi e faccio la prova e così almeno te la porti a casa col microfono, ok? Ah, mica lo buco il pattern paper, ma tu sì, c'è la retina in metallo. Devo solo allargare la plastica e basta, non devo fare altro. In modo che possa ricevere di più. Capito? Eia, ciao. Eugenio. Meglio degli altri. Io no, lo busco un tester. Anche per coppare, Sì, io dove lo busco? Sì, già ne ho io, non ti preoccupare. Ne ho uno, piccolino. Devo trovare solo anche sul ci ho messo dentro la scatola, sarà, vediamo un pochettino di toccolabile. Via, alla bella mela. Anda bene, anda bene. E cioè, bomba che è, adesso. Ciupicciu. Solo lo va, figlio lo va. Io invece ho un figliato, Sacco. Ehi, perché cosa te ne fai? Se fa niente. Se tu vedi ex. Sì, oia. Ma quanto 50 watt in più 121 lo sai. Su internet. Vai e te lo prendi veloce. Quanto costa il 50 watt. Ah, 50 euro. 50 euro? Cosa fa? C'è, non ti preoccupare. Ma lo sta prendendo anche io, però non so, non penso una cifra del genere. 50 costa a casa, sto dicendo, o su internet. E bisogna vedere come te parlo, quello è nuovo, nuovo. Che nuovo è, sempre questo, lo sto dicendo. Ho modificato il microfono, lo sai, esce una bomba adesso. Perfetto. Ho modificato quel microfono là, esce chiaro, perfetto e forte adesso. Quello di Eugenio? Sì. Fammelo sentire. Cosa faccio sentire? Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Non me la chiara adesso la voce. Mi ha dato, lo credo. Cioè, mentre sentivo dal foro alla, quindi faceva la cosa, la ma troppa ripetizione c'è, però. Ma gliel'ho messa io, vabbè, lui ce l'ha regalato, regola come vuoi, la posso mettere per me più che altro, ma comunque sia, è perfetta, la voce è chiara, è perfetta, come persona con me, Adesso va meglio, sì. E se non quello che ti programma durano la tua missione, dove appena di me. Che parla veloce, parla lento, se tranquillo, se ti faccio la messa, va bene. Fai la messa. Messa sì, io come sto. Mamma mia, come sto. Cavi, fratelli e sorelle. Tutto quello che toccate, mi si secchia. Amen. Va bene. Aspetta che devo dire una cosa, aspetta 2 minuti, fammi ricordare. La frase, dico subito. Dove? Ho un vento freddo allucinante. Vento freddo. Canto natalino. Ora provi. Ora pronubis. Tanto la salute. Aspetta, ora ti divento persona, va bene. Come meglio Concetta di Deck. E si sa bene. E io te l'appoggio, l'appoggio. E io te la spingo. E sicuro, è sicuro. Già pinziola questa cosa. Meglio così, meglio così. Matto. Avete capito? Sì. In piazza d'Italia. Lottate tutti. Balcone. Voglio santo con balcone. Marco, non si è sentito ancora, che non so, neanche le 5. Quando si sveglia le 6, già lo sai. Andale. Coco. Era le 3 a svegliare. Che ridai. Io lui è. Anche di Marco, se prende la patella, fa questo casino vuoto. E chi viene più casini che letto. E dico. Cari fratelli. Che ha preso, preso la sola. Buona concessione, per la meglio, ma... mette il nome. Ma lì mette l'amicizia, perché abbia, no? Che abbia, no? Ecco, per voi che avete preso la concessione, quello sandro con qualcosa, si chiama quello. Natali. Alleluia. Mattoni, cibi tutti, sentitevi, avete avuto l'autorizzazione gratis. Beh, l'unico che so fare solamente io, non c'è nessuno. Ma ormai già scritto, tu mi denuncia la gara. Sono entrato adesso a mangiare il cane e poi dato le scenocosie. Attento Marco. Ehi Claudio, aspetta un attimo, sto facendo delle pulizie, arrivo subito. Va bene, sono contento quando fai le pulizie, sono qua. Ehi, ok, a dopo, dai. Alghero, ce n'è uno, Alghero, ancora straniero. Claudio, da attaccato da liscio non arriverei sotto la veranda. Io ho 20 watt e 30 modulati, bene, KK, avanti, Natalino, Alfa 1. Cazzo, non gioco voi, ma io faccio freddo, butto la finestra aperta, ce la chiudo, c'è freddo, è maestrale, c'è freddo, maestralotto freddo. Lì di cosa ti sei stufato del display azzurro? No, quello no. Guarda, c'è un 3009 con le cifre verdi e il frequenzimetro, tipo Pluto ma cromazzo. Sì, si chiama Super Geopixel, ma è praticamente come il Pluto cromazzo, con pochi watt però. 4 watt è giusto per pilotare il lineare, capito? L'ho voluto tenere basso di watt per pilotare bene i lineari, anziché saturare, capito? Ehi, dimmi tutto. Oh, aspetta che sennò non mi senti. Ma mi senti lo stesso anche da lì, da liscio? Ma la differenza c'è, guarda, da così a così ci deve essere differenza, no? Dimmi che proposta è. Ma, beh, no, a me interessano i soldi mi interessano. Naturale, c'è bello, Sì, ma ne ho abbastanza di baracchini, dai. Ne ho anche troppi, ne ho anche d'avanzo. Quindi solo vendita. Ma sai cos'è, Eugenio? Nuovo è nuovo, sai che è nuovo, ha la garanzia. È una cosa diversa che comprare un usato, capito? Non l'ho copiato, Claudio, fai da ponte. Ha detto che in ogni caso adesso lo stai vendendo, quindi qual è la differenza? Cioè, gliel'ho detto mio Eugenio, Claudio, che mi sono pentito di non averglielo venduto. Me ne sono pentito, avrei preferito accontentarlo. Però diciamo che ha trovato un 3009 a un prezzo più d'occasione, un prezzo super, perché il minimo che l'ho pagato il 3009 era 150 euro da Media Globe, 150 euro, quei 110 è un prezzo super, superlativo. Ah, ma ce lo dire che non l'ha pagato 110 lui, 130, vedi, 130 è un desiderio in più, come ti ho detto io, avresti tagliato la testa al toro, te la fate contenti tutti e due, desiderio non ti fa via, né ricco né povero, e ci avevi quello di Marco che è già pescato, è già tirato, è già a posto, capito? E lui non te l'ha dato, e tu sei stato veloce, non mi hai ascoltato, ti ho detto aspetta qualche giorno che già te lo va, aspetta qualche giorno che te lo va, ci ha attaccato al computer e te l'hai ordinato. Sì, no, comunque ho preso un ultimo stesso, Claudio, hai tutto corto, anche questo è 3009, in altri giorni costa 189 euro, 189 euro, lui ha pagato un prezzo super. Ma vieni a prendere il baracchino, adesso l'avrete preso. No, non il 3009, è il Geopix col frequenzimetro. E quella è una bella radio, cazzo, quella è una bella radio. A me piace più quella del 3009, perché c'è il frequenzimetro ed è bellissima quella radio, molto bella. Comunque, Claudio, ripeto, abbiamo parlato in due prima. Il suo prezzo è un prezzaccio lo stesso, perché il 3009 nuovo, comprato dai negozi, ora come ora costava 189 euro, quindi lui ha comunque trovato un prezzaccio, capito? Certo, ha fatto un affare, sì, senza un vero dubbio, però quello che c'è lui è senza frequenzimetro. Sì, vabbè, ma lui, a lui non interessa per la M più che altro, la banda laterale non lo so nemmeno se la userà in estate, a lui interessa che esca bene in AM, mi già l'ho capito. No, esce benissimo col 3009 oggi, esce bene sia dal camper che dal furgone, da tutte e due, benissimo, alla grande, sinceramente parlando, ottima radio, perfetta, nonostante abbia microfono normale, va bene, alla grande, avanti Natalino. Ma infatti, a cosa serve? per la banda laterale, sai, per trovare subito le frequenze che ti dicono sulla tripla 5, tipo passa a 580, no? Lì lo regoli e vai subito, no? Non ti devi azzuffare con tabelle di canali, ecco. Però per un uso come fa lui in AM, soprattutto il frequenzimetro è inutile. Lo puoi anche spegnere per non stare a costo frequenzimetro acceso, si può anche spegnere. C'è il tastino e lo spegni, capito? Ho capito, capito. Vabbè. E comunque, baracchini sono baracchini, le radio sono radio. Voglio volete vi dica, ma il baracchino, appunto che c'è un bacchio che è un baracchino vero, non li uso, non mi piace usare questi a me. No, il DAC è un baraccone, non è un baracchino. Però va bene, per le più tre, va bene, anche del Delta, che non mi piace usare, mi piace averli, ma non usarli, sono abituato a questo io, non c'è niente da fare. Veglia, io sono abituato al 3009. Gusti, sono gusti, dai. Questo è il microfono normale, non so se l'avete annotato. Oggi voglio modulare un attimo col microfono da palmo. Da palmo normale, dai. Aspetta. Eugenio, beh, è arrivato il tipo, no? Com'è? Ho detto, è arrivato il tipo che aspettavi. Ah no, ti stanno motozappando il terreno, così è. Leggera, leggera, si sente. Quanti volte sono? Una settantina? Sono pochi, dai. Tanto per. Ehi, a proposito, ho sentito Antonello con con DM1000, esce un bel bene adesso. Ehi, vabbè, non è che ti allontani molto l'Antonello tu, però è più chiara, più tonalità alta, capito? Domani a che ora vai da Antonello? E con cosa vai? Col furgone o col camper? O con la macchina? Sì, perché potevamo organizzare e portare il microfono amplificato ZG e provare anche quello, capito? Eia. Oh, pensa Claudio che non ha segnale Eugenio qua, non ha segnale praticamente. E si sente solo la radio però, si sente che è forte, che non è una radio di baracchino omologato, capito? No, no, bene, qua Santiago 5, Radio 5. Perfetto, la grande. Perché non è a casa, è col mezzo quattro ruote sotto la veranda addirittura, quindi a malapena arriva da me Natali. Ma tu hai deciso che cosa prendere? Allora quella di Marco ci vuole 5 minuti a piazzare. Se è sabato mattina, tanto sono di nuovo libero, devo lavorare di nuovo domenica, se il tempo è bello, si fa un sopralluogo e guardiamo che cosa ci vuole. Quello che ci vuole io ti dico compralo, capito? Se ci vuole una staffa in più si mette, se invece quelle staffe sono sufficienti usiamo quelle. Tanto l'antenna di Marco è leggerissima, molto molto leggera. Sei è nata lì. Io l'avevo pagata 90 alla GBC e secondo me è un prezzo pieno, perché Eugenio l'ha pagata la metà, molto meno comunque. Basta vedere il cavo in più, ma si sa quanto costa questa Camille. La Camille è un busciacca, meno 2,50 al metro non lo trovi. Ma la trovo anche meno di 2 euro. Natali, guarda che tu hai bisogno di pochissimi metri, basta benissimo il 213. Ah, lì ti venivo nei 30 metri. 30 metri? Per cosa 30 metri? Ne ho 50 io, ma qua è un caos, mi farà arrivare il cavo. Faccio 30 metri. A meno che non voglia modulare tu dalle vicola, con la zena sul groppetto, posso capire. Io? Vengo qua a vedere. Io non l'ho visto, quando lo vedo te lo dico, capito? Però la Camille non so se ci sarà riportato fuori. bruciava perché non ne aveva più, ne aveva una matassa e si erano tutte appresa. Quindi se l'ha ordinato, che ce l'ha a Fusaro, capito? Se no c'ha il 213 quello buono, che insomma non è come la Camille, però già, già va bene. Hai questo invito? Ma avete chiamato, ero in bagno. Inteso hai? 45 euro l'ho pagata, Eugenio, metà prezzo mi. Forse erano rimanenze, eppure tuttora è in catalogo quell'antenna, eh. Non è un'antenna superata, è tuttora in catalogo. La GBC, io l'ho presa la GBC, ma l'ho pagata 90 euro. Tu l'hai pagata 45 euro. Eh beh, sicuramente sì, se li ha fatto quel prezzo. Non ha senso, Natali, la paghi uguale. Da 5 ottavi, metti costi 70 euro più 20 di spedizione. Mica sono lunghe mi queste cose, da spedire sono grandi. Capito? La mezz'onda magari 60, ecco 60 euro la mezz'onda, e la 5 ottavi 70, grosso modo. Cioè non ci guadagni nulla mi, anzi devi aspettare di più. Peccato che continente, la paghi di meno. Come? La paghi di meno? La spedizione non la conti, 15 o 20 euro per spedirla. Perché sai, è lungo almeno 2 metri il pacco, capito? 2 metri di pacco mi. E vabbè, decidi tu ad andata lì, io non posso obbligare nessuno. Vai Claudio. E beh, siete tutti spariti? Claudio? Forse andranno a mangiare al cane. Infatti, caspita, c'è sole, c'è un bel di sole, invece è già tardi. Tanti capi e radiofrequenze a tutti. Qui, ciao Gianfra, padre Gianfranco ti chiamo. Stiamo languendo. Claudio risponde. Natalino non sente nessuno, tranne quelli di Sassari. E io sto pranzando, dai. Riprendi. Io invece vado a cenare, a mangiare qualcosa. Così almeno non ci penso più. Ehi, ma che ore sono? Che non ho orologi. Le 7. Cesso, le 7 c'è il sole, cesso. Mi piaceva più quando era buio, no? Poi, se no il mio nominativo non sarebbe azzeccato. Sì, ma quando esci la notte almeno trovi tanta gente. Se la puoi pungere. No, che poi sai come sono io. Quando cambia l'ora che fa troppa luce fino a tardi, mi lamento. Quando cambia di nuovo l'ora, che fa buio presto, mi lamento. Mi lamento comunque, capito? Tu sei la mimma, urare tra Sassarese. Mamma mia. Cioè, lamentoso? Sì, no. Se ti sarete accontentato di quello che c'hai. Vabbè. E così, non sei mai contento. L'uomo di natura è incontentabile, se si accontentasse sarebbe banale la vita. Natalino, riprendi, saluta Gianfranco, da bravo. Ciao Gianfranco, Gianfranco te lo sento, bastino ma te lo sento. Ciao Natalino, bastino, ma dove è Alghero a Porto? Io lo sento sette e mezzo. Zona mercato, a mercato del pesce mi. Sì. Linea ottica praticamente. Vabbè, lui, Natalie, l'RFGIN ha già aperto tutto, sì. Ogni tanto può capitare. Oh, però, aspetta che stacco. Non è giusto parlare, ecco, con quelli di Sassari con lineare. Finché c'era Benito lontano, vabbè. Ecco qua. Bene, bene, Natalie. Però non parlare troppo forte al microfono. Fai così. Vabbè, sì, ti sento! Guarda, che non so, Comunque io lo sento benissimo, nonostante le apparenze, a ricezione non è scherza la sensazione. Nathalie, vabbè, te l'ho detto, l'Erfegin che si chiama Netta, quanto ti arriva di segnale Gianfranco, in poche parole? Parla Gianfranco. 5, 4, 3, 2, 1, 0, prove tecniche di segnale, vediamo un po' poi se sono malachino, i segnali sono relativi. Mi arriva da 0 a 1 oscillante. Mi pare molto strano. Mi avete fatto andare di traverso pure il riso. Mi pare strano che arrivi solo uno per Natalie. Sei sicuro che sia tutto a posto Natalie? Perché ogni adì ve n'era una, un giorno ci aveva il PL cotto, un giorno c'era l'antenna scorto circuitata, un giorno il cavo era fragico, non lo so, con l'impianto è sempre precario. Quando ci avrai l'RG 213 non c'è bisogno della Camilla Natalie, non c'è assolutamente bisogno. Io ne avrei bisogno che ho 50 metri di cavo, 50. Se avessi saputo che la differenza di prezzo era relativamente alta, l'avrei preso la Camille a occhi chiusi. Guarda, c'è poca differenza di prezzo, è appena più alto la Camille. E io sono proprio contento, adesso mi torno ad arrivare a due guarda, cioè io non sapevo nemmeno della Camille, scusate se ciancico lì, se avessi saputo che c'era la Camille, che la differenza di prezzo era abbastanza ridotta, avrei preso che chiusi la Camille, perché caspita, 50 metri di cavo pesano anche al 213 e diciamo che si sente anche questo peso, capito? Di ok, quindi se puoi prendilo, dai, se puoi prendi la Camille. Dille anche però che è molto rigido, Molto più del 213. Natalie, è molto rigido la Camille, pare più rigido del 213, ma molto più rigido Gianfranco. È molto più rigido, il conduttore interno è, a differenza del 213, è un pezzo di rame solido, capito? Non è diciamo tutto filacciato come quello del 213, è un conduttore unico, grosso, quindi se lo pieghi rimane piegato, se lo addrizzi certo in facciata insomma è una cosa un po' così, perché se scende storto, capito, lo devi tirare bene, fissare, c'è anche un bel peso. Ma di quale cavo stai parlando? Della Camille? Ce l'ho io, è morbidissimo. È morbidissimo, ma che Camille comprate? Io ce l'ho la Camille, è morbidissimo. La gomma è molto morbida. Ma non conosci la Camille, sì. Io ho l'originale Belden, e se tu lo pieghi rimane piegato. Ne ho usato talmente tanto. Sono originale però, oltre ho cantato il bidone. Sì, ho comprato a Fusaro, no? Se è Belden, no, se ho comunque la Camille, perché c'è scritto nel cavo, capito? Il centrale è rigido, unico, bello grosso, la carta è doppia, c'è il rivestimento in alluminio, ma la gomma rispetto alla cosa, poi più fine rispetto al 213. E io quello c'ho, una discesa unica c'ho di H1000. Il resto sono quelli che vanno al contattore d'antenna, sono tutti spettoni di 213. Eia, Claudio, ma il tuo è Belden o è di quelli Messi e Frocioni? No, No, io lo so, non ho manco controllato, comunque l'ho comprato a Fuggiaro. H1000, c'è scritto H1000 nel cavo. Guarda, se lo fosse quello che hai, il mese Paroni, quello lì, altro che H1000. Lo so, vabbè, io l'ho comprato a Fuggiaro, era 2,50€, ma l'ha lasciato 2,10€. Capito? Ne avevo preso 50 metri, ne ho usato 30 e 20 metri ho fatto l'ispettore, capito? Ugia mia, 20 metri li ho usati alla Mantova, quindi da dove è posizionata la Mantova sino al commutatore d'antenna, capito? Quindi è la H1000, ma non l'ho preso solo io da Fuggiaro la H1000, l'ha preso un sacco di gente, non so se è quello originale, ma comunque è la H1000, il centrale è rigido ed è buono come cavo. Ma non è solo il centrale che fa il cavo, è di elettrico, siccome ci sono tanti avvisi di cavo falso di altre litti, se mi dici che così morti, no, mi sono sentito di qualche dubbio, perché tutto è morbido, non è, insomma io fino a ieri ci stavo armeggiando con quel tipo di cavo, comunque non è... Sì, lo ha rotto di quelle cose lì, però se c'è una piega le rimane, insomma ti fa sudare per metterlo a posto, capito? Poi c'ha, no, c'ha anche l'angolo di curvatura, anche se non mi interessa su queste frequenze, però sulle altre c'è importanza, non è che lo puoi piegare più di tanto. Non so, già detto, io l'ho fatto entrare nella finestra, è stato bene. C'è tutta la curva che va alla radio, poi ci sono due spezzoni sempre di H1000 sull'amplificatore che vanno poi allo strumento esterno, e ho visto, non mi ha dato dei problemi, non so, vabbè, certo rigio già rigio, ma comunque io l'ho messo, va bene, Natalino deve farne il corso. Si fa scelta al palo, si attacca l'antenna, si fa scelta al palo e faccia per l'antenna una curvettina o un choc, tipo simmetrizzatore, un giro e poi lo fa scelto tutto al palo e glielo butto dentro a casa, cosa la deve fare. Claudio, ma tu sul tuo cavo hai mai guardato se c'è scritto Felden? No, è canalizzato il mio cavo, non è facciata, ma è cosa... Poi, pensando al cavo stavo a guardare se è Felden. H1000 è H1000, perché c'è scritto H1000, non avevo letto e c'è scritto, poi non ero da solo quando abbiamo fatto l'impianto, perciò è H1000, però non lo so, l'ho comprato a Fuggiaro, ti ho detto io, se mi ricordo il telefono a Fuggiaro dico che c'è della bella quella H1000 che ho venduto, comunque il costo era quello, 2,50 metro, non mi ha lasciato 2 metri a 2,10 perché ne ho preso 96 a 50 metri. Io avevo preso il 155 per 10 metri, l'H155 Belden per l'antenna ufficialmente del ricevitore che c'è qua, che poi sarebbe quella del PMR, anche se non sto più entrando, mi sono stufato anch'io. E gli ho detto, ma è originale? Sì, mi ha fatto vedere la scritta nella matassa, Belden H155. Beh, sempre meglio chiedermi, Claudio, non si sa mai che sia un cavo cinese. Vai Gianfranco. Aspetta, adesso te lo dico, ti mando anche la foto. Perché c'è uno spezzone dentro l'armadio di un paio di metri, lo prendo e ti dico se c'è scritto Belden o se c'è scritto che cos'altro. Ma forse state sbagliando tutto. Quando si parla di imitazioni, siano essi cavi, PL e compagnia cantante, è ovvio che ci mettono il nome, la serigrafia sul cavo, se no mica ti dicono, capito? Dove ora sta nel distinguere l'originale da quello falso, perché sennò appaiono i finti. Sulle recensioni si parlava di imitazioni e di contraffazione, capito? Che è un'altra cosa, non è guardare se c'è una scritta o meno. Adesso ho rifalsificato tutto, figurati i capi. È il mio. Canile è uguale al 213 come grossezza, è rigido e non è a 2 euro e qualcosa, è a 3,50 euro. L'ho preso io da Fusari a 3 e me l'ha lasciato a 3 euro. E allora ha ragione Franco. Era 3,50 euro, ma lasciato a 3,10 euro, no a 2,10 euro, da Fusaro. Ed è originale, fra quello che hai preso tu da Fusaro, c'è scritto Belve, perché io non trovo il pezzo che ci avevo qua, sicuramente l'ho portato su. Sì, esatto, esatto. Ma è rigido però, non è morbido, come stai dicendo tu qua, è molto molto rigido. In confronto al 215 è molto rigido. Io non mi sono capizzato, non me ne sono accorto perché io ho canalizzato dentro il pluviale, scende la finestra, perché a me mi entra dentro, se no 3 metri neanche, capito? E quei 3 metri che entrano dentro praticamente non me ne hanno dato fastidio, forse perché non ci sono curve, non c'è niente, capito? Quindi non me ne sono manco accorto, ma perciò non ho lavorato come insomma può capitare a qualcun altro, perché il commutatore d'antenna, gli attacchi d'antenna sono attaccati sotto il palo, qui abbiamo fatto altro che attaccare il PL, fa scendere il cavo giù e poi entra la finestra, perciò anzi la verità è stato tirato da giù verso su con un altro cavo agganciato, al contrario abbiamo fatto lavoro, forse non me ne sono accorto, però hai ragione tu, 3,50 euro, sì, Natalì, 3,50 euro, me l'ha lasciato a 3,10 euro, no a 2,10 euro. Io 25,62 e 50, sì, 62,50 euro, sì, è vero, a 2,50 euro al metro, alta 1000, rigido, come sta dicendo Gianfranco, non è flessibilissimo, già si può lavorare, non è un problema, però è rigido. Centrale addirittura dentro il PL è giusto, entra perfetto come c'è bisogno, nemmeno di saldarlo, di quanto entra perfetto dentro il PL. Buonasera a tutti. Sì Giulio, ma tu l'hai preso in continente, non l'hai preso da Fusaro, tu l'hai ordinato via internet, sì, infatti se lo ordini fuori costa meno. Sì sì, anche il mio, giusto, ho voluto comprare i PL nuovi, proprio per essere perfetti, ordinati da fuori, non comprati qua, io su c'ho PL buoni, qua dentro c'ho i PL quelli comprati, insomma quelli in batteria nera per capirci. Qua dentro, ma se no, quelli esterni no. E sono giù, tra giusto, centrale, sì. Adesso io non ce l'ho qua, un pezzo che mi era avanzato, dove l'ho portato su, sicuramente l'ho portato su per le direttive delle due, che sono molto vicine al commutatore, capito? Però è quello lì, 3,50 euro, mi ha lasciato a 3,10 euro, ripeto, rigido, però a me è fastidio, come sta dicendo Gianfranco, l'ho manialato, perché la mia calata è lineare, è dritta, e poi ci sono 2,5 metri, 3 metri che entrano dentro la finestra, c'è il foro proprio per il 213, che c'avevo 213, l'ho entrato lì, l'ho tirato dentro e l'ho agganciato alla radio, no? Capito? Però anche i due spezzoni che ho che vanno dall'amplificatore, e non mi hanno dato nessun fastidio, Gianfranco, però curve non ce n'è, capito? È molto libero lì, forse per quello che non me ne sono accorto che è molto rigido rispetto al 213, però è un bellissimo cavo, sì, doppia calza, centrale rigido, centrale unico, molto grosso, doppia calza e poi c'è il rivestimento in alluminio, quello c'ho io, va bene, avanti a chi tocca, ciao Fra, comunque buonasera. Ciao Claudio, ciao Gianfranco, ciao Giulio, Marco e poi non so chi, Natalino. Sì, comunque è così Claudio, è così, l'ho preso io. Fusaro quando sono andato gli ho chiesto ce l'aveva e mi ha detto che era 3,50, poi la signora me l'ha lasciato a 3 euro, addirittura me l'ha lasciato, e ne ho preso 20 metri di quello lì. Addirittura il polo caldo è molto grosso, come stavi dicendo, nel PLM l'ho dovuto leggermente limare stava per entrare, mentre nel PL normale entra perfetto. Sì, sì, di quello me ne sono accorto rispetto al 213, il centrale è molto più grosso, entra proprio a forza, mentre il 213 entra giusto giusto ma non a forza, perché infatti io ho la calata del 200 di H1000 e mentre le ispezioni che vanno dalle antenne al commutatore elettronico della Metron sono tutti ispezioni da 7, 8 metri, 10 metri di coso, di 213, quello buono per la doppia calza, capito? Lì me ne sono accorto che c'era differenza, però ti ripeto, lavorazioni non ne ho fatto, curve non ne ho fatto, quindi non è che ho visto che rigido o non rigido, poi se non abbiamo fatto la cena, c'è una giornata di sole, quando il cavo era in terra era caldo, insomma era abbastanza morbido, capito? Va bene, ciao Giulio, buonasera, rimetto il cambio per Marco, fai girare tu Marco avanti. Buonasera Giulio, ben entrato. Buonasera anche a Franco, ben entrati tutti e due. Seia, Natalie, decidi tu se vuoi un H1000 rigido oppure 213 morbido, perché se tu c'è quel baracchino che ha la parte posteriore attaccata al muro, no? E non lo so quanto riuscirai a far curvare il cavo lì per attaccare il PL lì. Non lo so Natalie. Vedi tu, dai. Già è duro il 213 a fargli fare una curva del genere, figurati da Camille. Le riprendi la tarì. Franconi, Franco, Giulio. Vogliamo andare a farci là, a rispondere del 213. È più che sufficiente la tarì per quello che vuole fare tu 213. Io ho voluto mettere a Camille perché è un'unica discesa e c'è tutto il carico delle antenne, quindi meno distorsione, meno tutto. Poi abbiamo 30-35 metri, più il torrino, più sul il mazzo della direttiva e ne ho di capo, capito? Va bene, avanti Gianfra. Sì, buonasera Giulio, buonasera Franco. Sì, infatti. Va bene, dai, per questa frequenza non ha senso spendere tanti soldi, anche perché poi magari da fastidio all'apparato che ti rimane dritto secondo la posizione, perché ripeto, essendo grosso il rame è abbastanza diciamo rigido, dai. Non da fare sforzi, però è rigido, cioè tende a mantenere la sua posizione. Io quello lì, tu figurati Claudio, per la mia distanza, già da qua al traliccio che sono 30 metri, alla base del traliccio in 2 metri uscivo con 10 watt e ne arrivavano già 5 con la Camille. La cosa da paura. Sì, ma infatti questa Camille si adopera per chi fa un certo tipo di attività sugli ATF eccetera, ma sul baracchino è sufficiente un buon 213, quella doppia calza, che va benissimo, basta spendere un sacco di soldi per l'HF, perché va attività amatoriale di forse. Se non la perdita sarebbe, ma sono segnali piccoli, ascoltarli è un casino, però la perdita di cavo, no? Il segnale non ne arriva, poi quando sei in potenza che dai un chilo ma te ne arrivano 500 sopra. Va bene, avanti Giulio, come stai, tutto bene? Sì, qua, mi sono appena svegliato, dunque sono a mezzo addormentato. Mi sono svegliato per fare un riposino e mi sono addormentato, mi sono svegliato 10 minuti fa. Sì, in effetti diciamo che per questa frequenza la Camille in un certo senso è sprecato. Però è una questione di punti di vista, ad esempio, un fatto di schermatura. La Camille è schermata al 100%, io parlo della Camille originale, quello dopo che ho io, è originale. Mi devo sentire che è pigliato ogni pochi metri sulla stessa. La velocità di trasmissione è 0,83%, per cui è importante. tantissimo anche quello, il 213 e il 076. Voi mi direte, ma cosa significa? Significa che sul cavo 066 hai 34 metri in meno come lunghezza d'onda, mentre invece sul cavo H1000 hai 17 metri in meno come lunghezza d'onda. Per cui è una questione del punto di vista. Naturalmente se poi mi dici che per la resistenza è staccata sono d'accordo, però soprattutto per il fatto della schermatura è importantissimo, perché non dimentichiamoci mai che noi abitiamo vicino agli altri e ho detto tutto, no? Adeguando lì, interferenze eccetera. Ok, ciao Franco, riprendi. Noi Giulio a volte cerchiamo di metterci un caso molto migliore, molto consistente, perché diciamo i casi che usavamo prima per la 27 erano tutti quelli, come si chiamava quello là, ma quello fine fine, oppure il 213. È buono, sì, io quando l'ho cambiato, avevo il 213, l'ho cambiato e ho preso quello lì, la Camilla, per vedere com'era, eppure mi trovo bene, cioè bene. Io la differenza parlando non me la trovo, però in ricezione c'è un po' di differenza confronto agli altri. Più avanti Claudio. Ma certo che c'è, immagino io che uso gli HF, è chiaro che la digestione cambia. Poi per quanto riguarda quello del Giulio, la schermatura è molto importante, assolutamente. Sì, ho quella tabella che mi hai dato tu Giulio, infatti ho visto quella, mi sono accorto subito la differenza, ma meno QRM, meno scariche, meno tutto, è un cavo ottimo, non ci sono dubbi su questo. Però io ripeto, non mi sono accorto della rigidità del cavo, perché la mia calata è proprio verticale e poi un paio di metri, 2-3 metri da un'altra finestra, quindi ribadisco che la giornata era talmente calda, il giorno era benissimo, maniche corte, quindi sicuramente era anche un pochino più morbido per la temperatura molto molto alta, ecco, dai. Perciò non è che ci ho fatto caso già fra tutto qui. Però è quello lì, quello a Fusaro, quindi è bello, non ci sono problemi, è originale, ma ce ne ha fatto notare appunto sia Giulio che Franco, proprio la differenza che c'è del connettore centrale che entra proprio a forza, giusto, infatti c'ho proprio la saldatura leggera proprio per il puntale, basta, mentre nel 213 gliela puoi anche mettere dentro, entra tranquillamente lo stagno, capito? Quindi è lì la differenza. Va bene, facciamo girare per Marco, si è assentato, Natali, vediamo un po' chi ti ascolta, vai. Ma Natali, quanti metri sei d'accordo di cavo? Dimmi, a te quanti metri d'accordo? Io pensavo che era molto meno, ma perché io ho 17 metri, con lo spessore 17 metri di RG8, che è buono, anche quello è un ottimo cavo, avrei regalato quello, ma se mi stai dicendo che te ne occorrono 30 metri, allora non è inutile che te l'abbia proposto. Vabbè, pazienza, dai. Facciamo girare, avanti, come si chiama, che non me lo ricordo più, l'amico di Furi, di Monteoro, vai. Ah, che bene, che bene. Gianfranco, avanti, adesso mi sono ricordato, ho avuto un attimo di amnesia, avanti Gianfranco. Un arcus, non ti entra là. Sì, infatti costa di meno della Camille, ed è più maneggevole. Quello che ho io è grosso, 3,80 cm, l'ho guardato adesso col calibro, c'ha un diametro di 3,80 cm, però devo dire che ne vale la pena. Sto guardando, se ne trovato altro, giusto per accappatarlo, ma è difficile anche a trovarlo, chissà. Che c'era? poi se era Montalatto Marco, se non sbaglio. Claudio, a te. Aspetta qua, oh, scusate che mi è venuta a dire che devo uscire. Ci sentiamo ancora in prossimine, dai. Ciao a tutti, ci ascoltiamo magari più tardi, se ci siete più tardi. Ripeti Claudio. Ciao, buona serata, grazie per essere intervenuto, alle prossime, noi siamo sempre qua quando vuoi. Avanti Marco, sei rientrato? Eccomi, eccomi. Ci era andato un attimo in bagno e mi sa che ci devo ritornare. Allora, qual è stato il verdetto? Nathalie, quale vuoi? Hai deciso? Vedi che si è arreso, Claudio. Non sai perché, perché Natalino ha quelle mensole, non con le radio, però sono molto vicine al muro, le radio, molto, e non so se il cavo, anche il 213 mi fa fatica lì a, a curvare e entrare nella, nella, nella, nella presa dell'antenna, non lo so, vabbè vedrà lui dai. Se vuoi Natali ti do una spezzone e fai le prove di curvatura diciamo, dai. Ok dai, mi prendo io allora. Sì, in effetti, ma se per quello Natalino gli va bene anche l'H155, visto che deve fare un tragitto di così, quel per l'antennino che sta utilizzando, va bene anche quello, l'H155, sì. Velocità di trasmissione, va bene, è schermato anche quello, già a distretto, dai, vabbè, 3,8 mm, non 3,8 cm, già tra, ti è sfuggito un attimo la, la misura col caso, 3,8 mm, esterno 10,5 mm, avanti Gianfranco, ciao Franco, buona serata, a risentirci intanto, se ti è ancora ascolto, avanti Gianfranco. No, no, esatto, sono 3,8 cm, è giusto perché non mi riferivo ad H1000, mi riferivo al Celflex che dentro, tu fidati che il tubo fino, no, il conduttore centrale è un po' più, poco più fino di quello che si usa nel condizionamento d'aria. Ah, su, su, smontate, chiudete i baracchini che mi state disturbando l'antenna, dai, su. Ehi, ciao. Ah, ecco, no, no, io pensavo che ti riferivi alla, alla Camille o Gianfranco. Sì, allora hai ragione, il Celflex. Sì, quello lì, è, lo so, è ancora molto più... vabbè, ma quello per altre cose. Avanti, oh, Luca. Buonasera a tutti. Ho detto, spegnete i baracchini. Che mi state entrando dentro l'antenna. Ma mal di testa c'hai? No, l'antenna... Praticamente uno parla a Claudio e mi si muove il polo idraulico. C'è, c'è mal di testa, prendi un misurì. Come un misurì? No, a lui non l'abitudine, però un misurì. Luca, ti brucio il baracchino. No, io lo brucio a te. Vabbè, dai, buonasera, io me, sono arrivato poco fa. Ho fatto già tutto, passo cena e poi rientro più tardi. A finire, diciamo, il round. Avanti, Giulio, riprende e fai girare tu, dai. Ok, c'è anche Marco, Claudio, Gianfranco e Natalino, va bene. Avanti Marco, ci sei? Cappa, eccomi qua. Siccome non ho le tabelle disponibili, no, con le... Qualcuno mi sa dire se l'H155 rende come un 213, domanda, come perdita, eccetera? Un po' di meno. Un po' meno, addirittura perde meno del 213, così è? No, perde di più, ma poco poco. Ah, di più, No, se no poteva valutare anche quello, Natalino. Vediamo qua il cavo dov'è. Eccolo qua. Guarda, questo è l'H155 che ho in mano. Questo curverebbe bene, Natalie, per andare dietro le radio, lo sai? Curverebbe bene. I risultati sarebbero quasi, quasi pari al, al 213. Ah, 25 metri, magari basta per arrivare all'antenna mia, Natalie. Sì, perché è sottile, diciamo che è più comodo, più, piccolo, meno ingombrante, meno appariscente, e si curva abbastanza bene, mi ce l'ho qua, eccolo qua, e si curva quasi come, come un, come si chiama, l'RG58. Insomma, adesso non sai, ti stiamo confondendo ancora di più, dai. Ehi, ehi, Claudio, riprendi. Giulio, riprendi. Ok, riprendo io allora. Beh, sì, in effetti è così. Infatti, bisogna tenere in considerazione, esempio, quando si fanno gli spiazzoni, per il rosmetro, per un alimentatore lineare, eccetera, bisogna mettere lo stesso cavo che abbia sempre la stessa velocità di trasmissione, perché è inutile avere, per dire, un cavo come quello che ho io, che ha 0,83 di trasmissione, e poi magari faccio la stessa onda con quello 0,66, non avrebbe senso. Bisogna tenere in considerazione anche quello. Vabbè, noi così è Gianfra. Bene, tutto, noi accettiamo tutto, non ci sono problemi. Tanto no. In più Santiago e meno, va bene con me, è interessante. Chiarisci? Avanti Gianfra. Sì, tu ti riferisci al fattore di velocità, però che può essere diverso, ma per degli spezzoni non è che puoi mettere il cavo qua, figurati se potrei mettere diciamo su quel cavo, io devo usare quello che in gergo si chiama codini praticamente, per collegarli agli apparati, perché sennò sarebbe quasi impossibile collegarli. Quindi si usano delle spezzoni, non è di norma le cavi più fini, non succede niente. No, c'è uno scompenso di velocità di trasmissione, perché ripeto, come ho già spiegato all'inizio, tu in aria se disturbi un accorciamento di 17 metri se usi un 0,83, se usi un 0,76 hai un accorciamento di 34 metri, e queste cose sono, tu mi dirai, ma sullo spessore, sì è vero, lo spessore è chiaro, bisogna costruirlo e lasciarlo fermo, non è che... Aspetta un attimo, devo chiudere. Ti metti fisso in modo che appunto non hai problemi ogni qualvolta che devi collegarlo, se no lo so, è fastidiosissimo perché non c'è quella flessibilità appunto che ti consente di lavorare al meglio, è vero Gioca, questo sì, comunque va bene, sempre bene, riprendi ancora Gioca. Ok, aspetta un attimo, sono meno 20, io devo andare a portare il cane, ci sentiamo dopo, continuate pure, l'argomento è interessante. Non mi ritrovo con la tabella che mi avevi dato Giulia dei cavi, proprio per rispondere esattamente come perdita, non me la ritrovo, devo averla messa dentro qualche cartella, non me la ritrovo, vabbè, ci sentiamo dopo, vai Gianfranco allora, vai. Sì, ok, ciao Claudio, anche io adesso dovrei andare a cena. Comunque Giulio, il tuo discorso può essere giusto dal punto di vista matematico, ma dal punto di vista pratico purtroppo non è attuabile. In molti casi si deve anche ridurre, secondo dove passa, anche lo spessore delle cose dell'H1000, perché secondo, se lo usi ad esempio sui BNC, è un macello, non è per forza ridurre, c'è poco da fare. Non c'è niente, tu pensa che, giusto parlando di scompensi, da dove fate, c'è gente che utilizza per basse potenze, ovviamente anche da un male cavo d'antenna TV, e le perdite sono veramente basse rispetto anche agli altri cavi. È una questione di scelte, capito, non è che le tabelle di comparazione se vanno mangiate, ok. Vabbè, ormai non avete più nessuno. Se non sbaglio sono 5 dB per 100 metri a questa frequenza, più o meno 5-6, per l'H155. Sì, più o meno, sì, per l'H155 all'incirca è quella, mentre invece per l'H1000 mi sembra che sia 1 e qualcosa, 1 e 2, 1 e 3, se che ti puoi immaginare non prendi niente, in poche parole, ma sempre sulla distanza di, su una lunghezza di 100 metri. Sì, io già sa, io sono d'accordo con te per quanto riguarda la plasticità nel lavorare, eccetera, è ovvio, questo sì, però bisogna anche utilizzare, siccome tanto sono case, ripeto, professionali, prima di tutto, e poi bisognerebbe anche utilizzare adattatori professionali, sempre, con PL professionali, queste cose qua. Poi per quanto riguarda il coso BNC, hai ragione, è ovvio, però si sa. Bisogna adattarsi, se uno vuole fare un pianto la devono adattare professionalmente a livello di radioamatori di grido, per così dire, e bisogna adattarsi, bisogna fare le cose come si deve. Poi se poi vogliamo trasformare qualcosina, ben venga, non c'è un problema, però la questione è sempre di plasticità e basta. Ok, va bene, facciamo girare avanti Marco. Sì, eccomi. Anch'io, vedi, uso spezzoni di RG 58, pur avendo il 213 sopra, sì, perché è poco attuabile magari. Sarebbero poco comodi gli spezzoni, a meno che, vedi, per perdere meno segnale possibile, farli di H155 gli spezzoni. È come il 213, ma... cioè di spessore come il 58, però è quasi come il 213 almeno di perdita. Ma a me, alla fine, se penso a quello magari non ci dormo. Piuttosto, chi ci è rimasto qua? Claudio, ho fatto pausa. Natalino, c'è ancora? Scusa. Oh, Marco. Sei Yadu. Marco, mi sono dimenticato di dirti, tu per caso compri su AliExpress? AliExpress, sì, ho comprato più volte e la roba è sempre arrivata. Io non lo so, l'avrei fatto anche io, però non so, se vuoi devo ordinare un vetro, no? Un'amica. Siccome non è roba, non è come detto, vai, paghi, è tutto scritto in italiano, quindi è tutto scritto in inglese. E tu volevo chiedere se potevi tirare quei soldi e mi acquistavi questo vetrino. Puoi dare anche l'indirizzo mio volendo, se non vuoi che ti scucci, fatemi qua a casa. È un vetro che purtroppo non si trova in Italia, si trova lì all'estero. Sì, nessun problema, Lu. Sì, però c'è anche il sito italiano. Beh, grosso modo, tra inglese e italiano si capisce qualcosa, dai. Poi si paga con carta di credito, è abbastanza semplice, dai. Io al momento sono, vabbè, senza, con la carta vuota, dai, ci avrò sieno 2 euro. Però ci vediamo un giorno X, o vengo io, vieni tu, mi dai soldi, carico la carta, molto costa questo vetrino, Lu. Allora, aspetta che mi sento anche l'email tua, te la giro, te la mando lì a coso, a... come si dice? L'email che ti mi hai mandato, cioè ti dico quanto costa, aspetta. Beh, Marco. Oh, il pomponio, perché stai fischiando? Perché sto usando quel microfono, caro. Tu sì che mi camminevi. Ma tu ti stai ascoltando con un altro baracchino? Se ce l'hai, spegnilo. Comunque, sul DM1000, tu stai parlando del DM1000, no? Quello lì hai. E lì c'è poco da fare. Tu hai la voce più acuta, esci bene. Benito, Salle o Benito, c'ho in testa sto Benito, Eugenio c'ha la voce più mascola ed esce cupo, punto, ci vuole lo ZG, se proprio vuole un amplificato, e infatti domani forse deve venire da te a riprenderselo, se riesco io vengo da te con lo ZG e aspettiamo che arrivi lui, così si prova anche lo ZG da palmo, ok? Ciao Gianfra, buona cena, dai. Luca, scegli tu se me lo vuoi mandare con l'email o su WhatsApp, come vuoi tu. Mi mandi il link, il collegamento di quell'oggetto, ok? Sì, allora, costa $25. C'è scritto US, Unione Sovietica, boh. Un attimo che salutiamo Gianfra. Ciao Gianfra, alle prossime, ci sentiamo. Dopo ti rispondo al riguardo dello spettone che stavi parlando poc'anzi, o Marco, riprendi pure Luca. Sì, ciao, per buona cena, scusa il ping pong, se no poi me ne dimentico. Sì, adesso te lo giro, se ho le mail tue ancora, se non mi ricordo, te lo mando lì. Comunque c'è scritto White New, cioè 10.1 Polaroid Mid C410 Pro 12, perché ce ne sono differenti che hanno il connettore, quello flat, no? A 12 oppure a 50 poli, a me serve a 12. Adesso ti copio il link, così poi tu lo vedi e mi fai sapere, dai. Ok, io dicevo, ho comprato più volte lì, no? C'è roba che arriva dopo 2 mesi e oltre 2 mesi ci mette. Una cosa c'è anche 2 mesi e 10 giorni. Certe cose ti arrivano in 20 giorni solo, no? Non c'è una regola fissa. Se costa $24 è sotto i 20 euro, non dovresti pagare la dogana, in teoria. Non dovresti pagarla. Vabbè, tu mandami il link, poi ne parliamo. Vai Giulio. Ok, dai, se fondo un attimino a riguardo di quello che stavi dicendo, a riguardo dello spettone. No, lì tu non hai scompenso di velocità di trasmissione, Marco, perché l'RG213 ha una velocità di trasmissione 0,66, che è equivalente a quella dell'RG58. Tu mi dirai, ma l'RG58 perde una la perdita di potenza, cioè di resistenza al carico, l'altra è la velocità di trasmissione, sono due cose completamente differenti. Siccome lo spettone è di 45 cm, massimo 90, non perde niente. Mi spiego, poi se ti occorrono delucidazioni a riguardo della portante te la spiego ancora, vai, riprendi. Ah, ecco, la velocità è uguale in tutti e due i cavi, ho capito. Quindi per questi non c'è questa cosa. Se poi più che altro mi le perdite non lo dà uno spezzone così corto, ma lo dà un PL, perché devi mettere un PL qua, un PL là. Per esempio, adesso c'ho l'ineare attaccato, no? Che però non deve rimanere attaccato, me l'avevo dimenticato. Ecco. C'ho quindi un PL che va all'apparato, un PL che va lineare, un altro PL da lineare al filtro e poi il PL dell'antenna che va sul filtro. Insomma, un bel PL, siccome sono quelli che danno più perdita, comunque, non gli spezzoni di cavo che sono corti, ma sono i PL. Poi, sai cos'è, io ho preso PL banali, quelli col dielettrico bianco in plastica, non ho messo battilite né niente, sono proprio quei PL-acci che venne Fusaro, a basso costo. Oh, scusa, posso? Vadi. Allora, quello che ho trovato è pitischio.it. Caffa! È pronto inviando, la prima mi sapere. Comunque, allora, mi 410, dovrebbe essere questo comunque. Ah, se io faccio la prova, ci clicco sopra e poi ti do la conferma. Comunque te lo sto inviando. D'accordo, guarda lì è semplice Luca, si acquista e si paga con carta di credito, è una cosa elementare. Poi vabbè, giustamente i tempi di consegna sono quelli che sono, l'istituzione non ne puoi fare manco a parlarne, perché a loro costa pochissimo spedire in Italia, ma se tu vuoi spedire in Cina anche una fesseria ti costa un patrimonio. Ok, quindi se arriva rotto, tocchiamo ferro, resta rotto, capito? Sai, il postino magari lo schiaccialo, speriamo di no. Ecco, va bene, allora mi è arrivato il messaggio, immagino, ce l'ho nell'altra stanza il coso. Allora, Claudio, sei rientrato? No, va bene, riprendi Giulio, dai. Allora. scusami giù due secondi, di nuovo sta andando via. Guarda che quando tu clicchi la link, no? È il primo partendo dalla tua destra, quello bianco, c'è scritto White New 10.1 Polaroid Mid C410 Pro 12 tablet touch, quello lì, che è il flat sottile, è il primo sulla destra, quello bianco. Ma tu mi stai mandando il collegamento a una pagina con tanti oggetti o il collegamento diretto all'oggetto? Ho già mandato la pagina, così non vedi qual è, non c'è da sbagliare. Non c'è, guarda, ti copio anche il nome del, se vuoi, aspetta, ti copio e ti mando il nome dell'oggetto, aspetta. Ehi, mica poi ci sbagliamo, è un peccato. Dai, manda tutto là, Giulio, riprendi. Si è anche andata lì, scusa, ma sta distante, adesso faccio questo passaggio e poi chiudo. Sì, allora, che sta considerando, ce lo mettiamo in maniera molto veloce e semplice, e in poche parole, noi mandiamo la portante, no? La lunghezza d'onda di questa frequenza equivale a 11 metri, no? Che va bene? Ci siamo fin qua. Se tu utilizzi un cavo che abbia una velocità di trasmissione 0,83, in aria la portante, cioè la lunghezza d'onda, si accorcia di 17 metri. Se utilizzi un cavo di 0,66, ad uguale a 100, sono 34 metri. Ecco qual è la differenza, Marco. Vi saluto anche perché mi sta scusando il telefono. Ciao Marco, grazie per la chiacchierata. Ciao Natalino, riprendi pure, ascolto la risposta e poi chiudo. Dai, saluta a tutti. Ciao Luca, ciao Antoni. Salutone che anche all'ascolta. Ciao, riprendi Marco, vai. Ciao Benito. Ehi Giulio, no, non lo sapevo, cioè io conoscevo questo fatto di velocità, ma non ci ho mai dato peso, davvero non ci ho mai dato peso, guardavo sempre solo la perdita del cavo dB per 8 metri, ma quella non l'avevo mai presa in considerazione. Comunque mi fa piacere che i due cavi qua abbiano la stessa velocità. Invece se avessi messo l'H155 come spezzone, scommetto sarebbe stato scompensato il tutto, giusto? No, perché la velocità di trasmissione è sempre quella, capito? Cioè, tutto lì, Marco, non ci sarebbe... Cioè, la sezione del cavo è in base alla potenza di quanto può reggere, per dire 1000 watt, 2000 watt, eccetera. Mentre invece la velocità di trasmissione è un altro discorso. Mi sono spiegato, Marco? Sì, quello l'ho capito, ma è un fattore che non avevo mai contato, in effetti. Non ci avevo mai fatto caso, ho detto, ma sarà per usi speciali, oppure per fare la stazione proprio a puntino, in modo professionale, ma tanto mi per il baracchino ce l'è d'avanzo. Ok, è entrato Eugenio, stavo per dire Benito, me. E Natalino c'è ancora? Io sono arrivato. Ciao Giulio, sta chiudendo, lo saluto, io ho fatto più fretta possibile. Marco, è così comunque, se tu ti ricordi io all'interno ho tutto spezzoni a camicia, ne ho tanti, credimi. Ne ho tanti, dall'amplificatore, agli strumenti, accordatore, vale, sono tutti uguali, perché la discesa è quella e quelli devono essere spezzoni, non è che puoi mettere spezzoni di un altro tipo, perché altrimenti ti varia come ti ha detto Giulio. Ciao Giulio, buonasera, di nuovo ben sentito, grazie per essere entrato, grazie del questione di tutto. Riprendi per i saluti e poi vai per Eugenio. Ok, ciao, sì, stavo chiudendo stasera, eccetera. Sì. C'è uno che mi sta telefonando, ogni tanto mi telefono da Iglesias, che io non conosco, nemmeno lo rispondo. Quello deve essere che sbaglia continuamente il numero. Vabbè, comunque. Ciao Luigi, salutoni, ci sentiamo. Il tuo impianto è perfetto, Claudio, con il cavo di discesa uguale con quello di flessioni, è perfetto così. Poi per quanto riguarda la praticità manuale non è un problema, tanto tu hai tutto predisposto sotto e dunque lasci tutto inserito, devi solo staccare una cosa centrale e basta. Ok, ci sentiamo di nuovo domani. Dai, ciao Claudio, Marco, Eugenio, io un po' sto andando via, è Natalino. Ciao Natalino, ci sentiamo alle prossime, riprendi Eugenio. Claudio mi, Giulia ha detto che abbiamo anche lo stesso, cioè sia il 213 mio, no, di discesa, che le ispezioni hanno lo stesso fattore di velocità, quindi poco male per dire, cioè è adeguato, anche se il cavo è più piccolo. Oh, yeah. Mi sta salendo il pesce su e giù, mi sa che mi piglio un bicchierino di digestivo. E beh, Eugenio, sei con l'antenna fissa adesso, sì? Guarda il segnale, una settantina di watt. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai. Dove eravamo rimasti? Ah, mi. Quello che ti ha detto Claudio prima. Eugenio. Cioè Claudio mi conosce, sa che io avrei ceduto per quel baracchino. Perciò te l'ha detto aspetta, perché mi conosce molto bene. E infatti poi mi ero pentito di non avertelo dato, capito? Claudio vede nel futuro, capito? Claudio vede nel futuro, c'ha la palla magica. Oh, scusate, dai, io adesso chiudo, Marco, guarda che è il messaggio delle 19.51, quel pezzo che ti ho detto, ho copiato il link, il nome dell'oggetto, non c'era sbagliare, poi è il Pro 12, c'è scritto, Mid C410, Pro 12, bianco, e poi fa sapere, dai, io intanto parlo con questa mia amica per farmi dare i soldi, e poi mi direi esattamente quanto è la cifra. Sì, sai se c'è una spedizione gratuito? Sì, shipping free, sì, gratuita la spedizione. Ah, ok, sì, allora non dovrebbe pagare dogana. $24 saranno 23-22 euro, siamo al limite. Va bene, poi già, detto una cosa esigua. Vai Claudio. Ciao, ciao a tutti, buona ciao, alla prossima, ciao. Ciao Luca. Ma vabbè, io non era per far cambio. Guarda che l'Uranus è un ottimo apparato, mi. Non lo devi dare quello lì, quello è un pezzo di storia. L'Uranus è anche difficile da trovare, mi. Perché di Pluto ne trovi a buttarne, di altri apparati ne trovi a buttarne, ma quello è più raro, è un pezzo più raro, quindi io direi tenertelo stretto pure. Ah, non ha il canale e frequenzimetro, solo il frequenzimetro, sì. Vabbè, dai, comunque è un apparecchio abbastanza raro, dai. Io che altro è interessato ai soldi. Vabbè, ormai l'acquisto l'hai già fatto, dai. Eia, ma già ne hai avuto di fretta, Ho detto Claudio mi vede nel futuro, vero Claudio? Sapevi già che sei ritornato indietro. Certo che sì, ma io lui gliel'ho anche detto, ti aspetta che qualche giorno, lui ha avuto fretta, ma qualche giorno si intendeva l'indomani, perché tu già l'indomani eri disponibile, e lui l'aveva già ordinato, perché la sera stessa lui si è messo e si era ordinato, capito? Il tempo di arrivarle lui ce l'avrebbe già avuto, comunque dai, non è successo niente. Ora se ne serve un'altra, vediamo un po', va bene. E nella Mercedes il baracchino non lo vuoi mettere? Ma non ci penso più. Con la base magnetica, mi, non buchi niente. Ma non ci penso più. Ah, Ah, vabbè, e vabbè, ma tanto già lo sai che GeoPix 2000 è omologato, nasce omologato, io posso riportare omologato, ed è omologato a tutti gli effetti. Oggi ho mangiato riso e gamberetti, lì vicini, mummificati in busta, mamma mia, e poi pesce. Vabbè, però mi sta salendo un po' su e giù. O mi piglio con l'effervescente, come si chiama? Bicarbonato, oppure mi piglio un bicchierino, che è meglio. Sì, ti avevo mandato la foto, no? No, non ti voglio forzare, ci mancherebbe, l'avevo detto così anche buffonando, no? Ci manca solo sulla macchina l'apparato. Claudio oggi è un po' silenzioso, cosa si prendi? Lascia stare le altre bande. No, mi stavo mettendo nuovamente la tuta, il pigiamino, va. No, ti sto ascoltando in VHF, ma come vedi non senti niente. Tutto in sottofondo, giusto, così stavo seguendo il discorso. Ma sono qua comunque, scusate, se mi sono allontanato per mettermi il, per togliermi le scarpe, i pantaloni, eccetera, stavo portando il cane. Saluto a tutti, ciao. Gianni, sei tu. Ehi, buonasera, dai, vi stavo ascoltando ma non potevo entrare. Vi saluto tutti, vado a portare il giustaio. E sei Mattighelli, sì? No, non so come Mattighelli. Mira, Daniele, mi sembrava stavi mangiando. Ciao, già, sì, sono già le 8, ma io sono salito. Sono sceso un po' prima oggi, dai. Sentiamo dopo già se coincide, dai. Buona serata anche a te, avanti Daniele. Via Daniele. Ciao, buonasera, ben ascoltato. C'è Marco, Eugenio, Gianni che è in QRX momentaneo, poi non so se c'è Natalino ancora, perché io mi sono allontanato. Avanti Marco. Eia, ciao Daniele, ben entrato. Compagni Claudio, Eugenio, Natalino che non sente e Pomponio anche. Pomponio, riprendi un po'. Come dai, Giulia? Yes, super, GeoPix 2000. Ai. Pomponio, riprendi. Se non riprendi, guai, stanotte muori. Motopompa non riprende, sempre attaccato alla bottiglia e di birra. Comunque è simile al mio, il mio è la cassetta, quindi ci siamo bulldozer, ehi, sì, è così. Siamo anche bulldozer, avanti. No, è bulldozer che Daniele, un secondo, un minuto arrivo. Io non la sentivo molto cupa, un po' di toni bassi, sai perché Benito? Dalle con Benito, magari che c'ho Benito. Parlate in due, sì. No, Eugenio, mi viene questo nome in mente, in testa, ma c'è davvero un CP che si chiama così. Chissà perché ce l'ho sempre in testa, sai, questi nomi un po' li confondo. Benito, Eugenio, un po'. E cosa stavo dicendo? Sai perché non lo sento cupo? Perché questo baracchino, i 2-3009 ricevono un po' più acuto, ricevono modulazioni un po' più acute, quindi se uno è leggermente cupo, qua lo sento bene. E a pigliarla. È grossa la voce. Daniele, come mi ascolti da Sassari? Sono con l'aiutino 70 watt, vedi un po', 123 Sassari, zona Viale Trento. Eia. Poi una cosa, Eugenio, il linearetto, io adesso ho il microfono normale su questo apparato, no? Quando attacco il linearetto mi esalta la modulazione, lo sai? È una caratteristica di questo linearetto, quando lo attacchi ti esalta un po' più la modulazione, te la fa leggermente più alta. Ma allora, apparato Superstar 3009, linearetto è un RM Italy, quello piccolino, il 203, 70 watt, perché c'è un filtro anti-TVI multiplo, mi ruba 10 watt, se no sarebbero 80. Sì, guarda, questo lineare praticamente dentro è uguale al 747 della CTE, è lo stesso lineare praticamente. Guarda, questo non è un filtro per esempio tipo ZG, che ridicolo, questo è un filtro della RM Italy ed è un filtro a 5 celle, quindi filtra più volte, diciamo, costa intorno alle 30 euro, intorno alle 30 euro. Io, per non fare TVI a Sassari, per evitare TVI, ho messo questo filtro qua, nel caso che ci fosse TVI, ho preferito metterlo, mi ruba 10 watt, però almeno contiene tutte le armoniche, mi spiego? Siccome questi film, questi lineretti sono una fabbrica di armoniche, questo almeno trattiene tutte le armoniche che possono disturbare le varie frequenze, ok? Ok, vai Benitez. Ah, di nuovo Benito. Ma non l'avevo preso, ma Benito modula, c'è uno che chi si chiama Benito, mi viene questo nome Eugenio, non è colpa mia. Vai Eugenio. Non lo so perché, ma c'è qualcuno che nomina, c'è che modula questo nome? Si è venduto. Dov'è Eugenio? Ho detto prima era il tuo pupillo, tutto quello che diceva Marco andava bene, adesso dice anche le parolacce. Così, va bene Benito, allora va, non ti preoccupare, tutto a posto. Ciao Valerio. Buonasera, io mi sono andato a mangiare, se lo vuoi. Ehi, tu sono andato a entrare prima, qua c'è ruota dalle 5 del pomeriggio, quindi guarda tu, sono le 8 e 10, siamo 3 ore e 10 in radio e tu non ti sei fatto sentire per niente, e ne è passata di gente, c'era Gianfranco, Giulio, io, Marco, Eugenio, c'è Daniele, è entrato Franco la socio, è canale 10, canale 10, non c'è niente da fare, non è buccia di gioco. È appunto. La prossima volta, la prossima, comunque auguro a tutti buona cena e ci sentiamo il prossimo, dai, riprendi nuovamente Claudio. Ciao Vale, ci sentiamo, dai, buona cena con tutte le prossimine. Avanti Natali, cosa stavi dicendo? Natali! Devi essere più veloce Antari, se no poi parla Daniele, parla Eugenio, parlate tre, non ci capisco niente. Sì, certo che c'è Benito, un po' di tempo non lo sento, ma sicuramente è impegnato al lavoro. Forse mi pare aveva tolto l'antenna per fare manutenzione, ecco perché così mi avevano detto, perché avevo chiesto e mi avevano detto così. Forse ancora non l'ha piazzata o non lo so, qualcosa comunque stava facendo, stava cambiando la postazione, non lo so, qualche lavoro sta facendo comunque per quello che un po' assente, se non di solito già si faceva sentire. Ok, Daniele riprendi? E allora già ho capito bene, mi pare male, mi hai detto tu, adesso non mi ricordo, comunque qualcuno mi ha detto che voleva togliere l'antenna per fare manutenzione, ecco perché un po' assente, se non venito la sera, di solito faceva qualche lavoro lì nel... nella sua baracca era sempre attivo. Va bene, comunque se fosse in ascolto lo saluto cordialmente. Avanti Eugenio, riprendi. Però guida quello più grosso, Benito guida, ma Benito penso non stia guidando più, è nella stessa azienda, però penso che sia in deposito, non sta, esce pochissimo rispetto a prima, capito? Va bene, avanti Marco, lo credi? Ah, ho capito, Benito era quello, è quello che modula dall'agro di Sosso, vero, me ne sono ricordato adesso. Sì, quello lì sì. No, ecco cos'era questo nome ricorrente che mi veniva in testa e lo confondo con quello di Eugenio. Mi piace quello di Eugenio, Marco, quello di che dice Marco a legge, eh? Grazie Eugenio, già, ti regalo il microfono ZG da Palmo. Eia, vai Eugenio, saluta. Ciao Dani, alle prossime, grazie anche a te per essere entrato a fare due chiacchiere, siamo sempre qua quando vuoi. Hai sentito cosa ti ha detto Eugenio? Solo perché l'hai elogiato, eh? Solo perché lo lecchi, hai capito cosa ti ha detto? Ti regala anche un altro microfono, non solo. Ha fatto sentire, è un ZG che funziona molto bene col Superstar, meglio dell'M300 secondo me, o del DM1000, okay. E allora un caruro, uno ce n'è andato e l'altro è entrato, ancora vedo Daniele e tutti lo chiamavano il Massimiliano. No, non è possibile, no. La mia modulazione non può essere uguale alla sua. Se ti abbiamo scambiato con Bombolo. Figura, 10 ma figo, ciao. Tu l'hai scambiato, io ce lo riconosco, Massimiliano, c'è una modulazione particolare. No, aspetta, molla tutto. Quando è entrato Bombolo con quella modulazione bella teccia, tu l'hai chiesto, vabbè Massimiliano. Ah sì, quando ha fatto capo Eia, quello con l'ecco fortissimo. Si assomigliava un bel, tu invece l'ho riconosciuto subito dopo al secondo passaggio. Si addice. Allora, con me è più acuto perché ho i toni più alti. Con te che la voce è bella, più con toni bassi, va bene. Ti avevo anche fatto sentire ieri. Ieri ti ho fatto sentire, ti ricordi? Che usavo un po' il DM1000, un po' l'M93, non te ne ricordi? Sì, già lo ricordo, ma c'era la cosa. Beh, esce acuto. DM1000 esce bene con me, con Pomponio, con te cupo. Invece l'M93 come esce acuto? Con te uscirà giusto. Fidati, domani già lo proviamo. Se vai da Pomponio mi devi avvisare prima che ora vai, che io vado all'ora di giusto, vai. Pomponio ha aggiustato, e cosa deve aggiustare? Quello era già buono di suo, cosa deve aggiustare? Quello te lo dovevi vendere e pigliarti un microfono adatto, tipo lo ZG. Capito? Non era mica rotto, non era assolutamente rotto quel microfono. So che non andava bene a te. Vabbè, e se ce l'aveva lui, come ha fatto a allineare la voce tua, boh? Vabbè, dai, poi ci approviamo anche quello ZG, fidati. Va buono, vecchino. No, dubbio. Però c'è sempre in gran cendi. È stato di mia sponte che gli ho dato quell'apparato per il camper, capito? Non è che me l'ha chiesto lui, dammelo, gli ho dato io, era in più, non lo usavo. Vabbè, a me non mi puoi dare niente, non c'ho manco una sesina. Ehi, sei pieno di radio, tu cosa ti do a te? Cosa ti do qua? Ce l'ho io, una H-5500. Non ne voglio baracchini, voglio roba base io, cosa c'hai da darmi? Base. Anche vecchia, cosa c'hai da darmi? Base però. Io base nulla. Ma non baracchini, qualcosa di... boh, non so, base. C'è un buco, ve lo vuoto. Lo comodo ti do, così riempie il buco. Ma non è te, invece tu c'hai i baracchini e pure sto facendo di roba consistente. Quindi solo Gianfranco può rispondermi, vero Gianfranco? Cosa c'è? Cosa c'hai? Natali, ti do 4.30 a te, dai. 4.40 me lo tengo. Gli apparecchi che ho io a te non ti piaccio. Cosa c'entra? Anche la collezione messo lì, capito? Anche di, non lo so, qualcosa di consistente però, che sia massiccio, dai. E poi mi dai due ruote del furgone anche. Fidati che per la 27 è meglio l'Uranus. Sì, è sicuro. Chi non usa trattaedo. Per comprare il 430 ci vogliono 500 sacchi, amore mio. Abbiamo una radio HF 030, capito? Con 150 watt in AM. Io lo voglio, ma dai. Nome è Maracchino. Vai. Non sai manco cos'è tu 430. Bisogna che vieni e te lo controlli bene. A parte il fatto che non si muove da lì, no? Nel modo più assoluto. Rimane lì e buh. Perché c'ho 430 e 440. E non li tengo, non li do a nessuno, se no l'avrei già venduto da tempo, però me l'ho voluto tenere di scorta, anche se lo accendo poco, lo uso poco, perché è un po' più vecchiotto di questa e quindi bisogna trattarlo un po' meglio, capito? Però adesso appena ho due minuti lo impacchettiamo, lo mando al Biancone, lo faccio fare nuovo, mi ha fatto fare questo me. E vedi che lui torna bello, ordinato all'interno, però all'interno, ma stai attento a dire che questo non è stato cagato da nessuno, è che è proprio vecchio, sta iniziando a avere sintomi di vecchiaia, come mi ha detto qualcuno che l'ha già cambiato il display una volta, capito? Sintomi di vecchiaia, a volte si va vedendo e si tuga rasura, ma gli ho preso ballosa, siccome io non sono tecnico, lo mandiamo, lo facciamo tutto revisionare. Va bene, sarà fatto. Guarda sotto la radio che c'è un bigliettino attaccato. Infatti, diglielo Massimiliano. Quella è Bulldozer, almeno l'hai compreso. C'è un bigliettino sotto, c'è scritto Massimiliano S. Già si può fare, già si può mandare direttamente lì. Basta che lui metta un bonifico, però la cosa si può fare. Non ha problemi, è pieno di naso buttinoso. Problemi in pagarla. Cos'è il rumore? Non sono io, aspetta. Uno che c'ha i soldi però non vuole spendere. No, ci metto a bocca io là. Già spende, cosa non spende? Già spende. Ma tu chi sei? Eia, stanno di stupido ciazzato. K. No, Massimiliano, lo mando adesso appena c'ho tempo. Non è una questione di... l'avevo già avvisato. Ma mandamelo quando vuoi, solo non c'ho mai tempo di fare una bella cosa, un bel pacco, capito? Farlo bene, come ho sempre fatto, lo procuriamo acqua. Va bene, comunque Gianfranco, sto scherzando, non c'hai niente da vendere per me, anche HF qualcosa, non lo so, qualche base di quelli strani, niente. Giocattoli, quindi fanno parte di un tutt'uno, ho capito. Positivo, vabbè, mo devo investire un po' di soldi, invece niente da fare, fino allora non compro niente, meglio per voi. Oh, anche tu l'angelo, sì. L'ho venduto e tu te l'hai comparato, avatelo bene, ma tu lo sai quanti baracchini avevo io? Ti faccio vedere le foto di quelle di 2 anni fa, quanti baracchini base avevo io? Una decina, io tutti dati, tutti. Qualcuno l'ho venduto e qualcuno addirittura l'ho regalato, siccome tu sei entrato in ritardo, se no magari uno te l'avrei regalato a te anche, capito? Regalato, cioè se ti ha regalato, base però, mi ha 2,20, regalato. E uno di quelli che è Massimiliano, è stato 2 mesi che non mi parlava, il Ruiz, vero Massimiliano, parla e sto dicendo, Massimiliano. Ma io mi stavo girando i funghi, cos'è che hai detto? Ha detto il genio che è entrato troppo a ritardo, perché io di Radio Baracchini, a me chiamate radio, non mi piace, Baracchini base, quanto ne avevo, se ti ricordi, dalla parte della finestra? 7, 8, laggiù tutti regalati, qualcuno l'ho venduto e altri li ho regalati. Se lui fosse entrato prima, ne avrei regalato anche uno a lui, capito? Come il Royce, no? Il Royce, quello bello, ti ricordi? Che sei stato 2 mesi che non mi parlavi perché me l'ho venduto. Vabbè, che cazzo secondo te? Allora, non sto scherzando, oggi è realtà. Li ho regalati perché non c'avevo posto, perché dovevo fare altre cose, eccetera. Quindi, capito? Perciò FBI, però quello che ti ho sempre detto io, adesso a parte gli scherzi, perché adesso c'hai 2 belle radio, una nel camper e una nel furgone, ok? La macchina lasciala, perché la macchina a me da zingaro non mi piace. Per casa, quello che ti voglio dire io, e te lo dico con molta sincerità, mettiti un bel base, un base 2,20, che sia adattato, che sia vintage, per dire come questo che ho io qua, no? L'SSM150 della Fayette base, che è bellissimo, 240 canali, un base ci vuole per te, con un bel Turner più 3, capito? Roba adattata, un Turner più 3, non questi microfoni che stanno facendo adesso, ci vuole per te una radio, anche vintage, 240 canali, tipo questa che ho io della Fayette base, così, no? Ok, con un bel tram più 3 da tavolo, tu ti dimentichi di dove sei, berretta zio Claudio, berretta zio Claudio, no, il microfono MB+4, MB+5, ZG, M300, tutti gaggati, giovici. Ma perché tu cosa pensi di spendere con andando a comprarti un base anche vintage e trovandoti un Turner più 3 su eBay? Che vai a comprare un Turner più 3 a 60 euro, ok? E poi si procura un Turner più 3. Vai a comprare una radio tipo questa a 100 euro, base 220, grande, bella, che tu la metti lì, non ti domanda alimentatore, non ti domanda nulla, tutta completa, rosmetro, wattimetro incorporato, strumenti da paura. Cioè cosa te ne fai dello baracchino canto un pacchetto di sigaretti? Ma te la mando la foto del Perfat della Fayette SSB150 che ti metti a piangere, ma lo sai quanto è bello? Eh? Ed è una radio di 40 anni fa, ma lo sai quanto è bella? Bella, bella, completa di tutto, bellissima. Roba antica. Vai, antico vai un gabo tu, antico vai un gabo tu. Non sapete apprezzare la roba vintage voi non la sapete apprezzare la roba vintage. Siete invisciati tutti i baracchini da 4 soldi che non servono a niente, a nulla. Capito? Le radio vintage di una volta ti tipo quella, tipo le Comstat, tipo il Simba, che è una cosa bellissima, il Royce, il Console Primo, il Console 2, tutte quelle radio lì, fanno Girimone in Musciacca come ricezione e come trasmissione. Se senti la ricezione ti ho detto di questo affaiette in base, ti metti a piangere, perché ricevo meglio del 440, meglio del 440, ma molto meglio. Cosa compri? Te l'ho già detto e non la vuoi, quindi stai zitto e punta a capo. Oi, dimmi. Guarda, Massimiliano è vero quello, perché io quella l'ho tenuta poco e poi l'ho data a Massimo. Adesso ti mando la foto di questa accesa, la fine del mondo. Devo correre in bagno, me la sto facendo addosso, ciao. Vai Massimiliano. Oh yeah, qua sono. Non te lo so dire, devi controllare nelle istruzioni lì se ce n'è su internet, vedere un po', non lo so, guarda un po' se ti dà qualcosa, magari quando lo spegni, lo accendi, devi tenere pronto qualcosa per uscirci i canali, boh, non te lo so dire, guarda, non lo so. KKKK. Ma lei gliel'hai mandata mai la foto di questa radio a Eugenio? Sì, buono, me la metto qua. Allora ti la mando, Eugenio. Allora ti la mando. A voi mi dice, è bella, lascia perdere quella che c'è sotto, quella che c'è sopra accesa. È uno spettacolo quella radio, uno spettacolo veramente eccezionale. Guarda, quella che sopra praticamente il DAP, che vedi solo gli strumenti. Aspetta, ti ho dato, tu, te l'avevo mandata la foto del DAP, sì? Sì, quello ne ha 240, non 120, l'ho modificato. Capite? Ne ha 120 normali e 120 modificati. Però la bellezza di quella radio è indiscutibile, non ce n'è per nessuno, solo gli strumenti, va tutto. Vado un rosmetro e un wattmetro, che pare uno strumento di WC. Cioè, un wattmetro di quelli a dettagli grandi, tipo un modello 700, una cosa del genere. Lo strumento è così, proprio grandi strumenti. Qua, te l'ho mandata. Ciao, Vale. Oia, cos'è che ti stai girando, Massimiliano? I funghi? Ehi, sto girando i funghi e anche il pesce. Funghi e pesce, stanotte? Sì, i funghi domani a pranzo, che li sto facendo, per il pranzo di domani, il pesce per stanotte. Ah, ti porti il pigiattino? Sì, cazzo, con 20 anni, ma arrivo il pigiattino. L'ho fatto anch'io. A me piaceva molto le polpette asciugo, mamma, andati in cantieri, polpette asciugo a tutto andare, cotolette, patate bollite, quelle cose, cosa la vuoi fare? Ehi, cosa è così veloce, capito? In un'oretta devi pranzare, quindi ti serve una cosa veloce. C'è Gianfranco anche, mio Claudio. Riprendi Gianfranco, io ho un attimino solo e poi riprendo al volo, vi ascolto. Anche io ascolto che sto facendo cosa. Ha detto poco fa Gianfranco che stava facendo cosa. Che arrivate oggi? Sì, la sono guardata. Quadrata, rettangolare, non quadrata. Ma guarda gli strumenti, bellissimi. Altoparlante davanti, tutta cromata, pomelli sono come nuovi, c'è un microfono originale, bella cassone in legno, bello lucido, guarda, nuova, c'ha tutto, la parte appunto del filtro, tutto, con tutti quei pulsanti che ci sono lì. C'ha tutto, ci sono i piccini, c'ha il tono che è praticamente alto e basso per la ricezione, c'ha la CBPA, il CAL che appunto serve per la calibrazione del coso, dello strumento. importante, allora a Porto Torres. Sandro, tu sì, non ho visto la portante io, se non ti dicevo da che parte era, ma se non mai sentito tu vuol dire che è a Porto Torres. Sandro, forse la Sandro non sta facendo il radio, mi sembra di vederla 9:10. Sandro, comunque hai capito, c'ha tutti, bussa tutto quello che serve per un baracchino basso. Bella, bella, tutta cromata, molto bella. Beh, ma non ve ne andate a mangiare, no? Lei, che lasciamo? Andiamo. Io vi stavo ascoltando da poco fa, però sto facendo cosa, ho fatto entrare, no? Sì, ma mi sembra passando, tu hai visto questa portante per caso, da te? Assolutamente non ce n'era portante. Allora, da te passavo. E allora, Sandro, sicuramente che non stavo scendo di radio lì da te, a Porto Torres, a OVG. Ma io portante non ne ho sentito, il passaggio di Claudio l'ho sentito. E allora forse c'è Sandro che stava provando qualche microfono e non stava uscendo. Sandro, beh, se non mi senti a Porottore, se vuol dire c'è qualcuno a Porottore, se sino a Tavo a Passo, sino a San Giovanni Passo, vuol dire lì a te. Ehi, l'ho vista, 9:10 era, quindi mi è sembrato il segnale di Sandro, mi è sembrato, non lo so. Boh, io non l'ho vista da portante, gappa gappa. E Marco, dove è andato a fare la cacca? E che partita c'è? Adesso, Rai 1? Va bene, allora adesso noi ci andiamo a mangiare. No, volevo parlare con Alessandro, perché l'ho visto segnale, ma non stavo uscendo del radio. Va bene. E allora anche io vado a guardarmi la partita. O mi guardo la partita o mi guardo l'Isola dei Famosi, adesso vediamo. E no, che avere l'Isola dei Famosi, avere la partita è un problema comunque, le visioni già ce n'è. Vediamo un po', Ma è pronta la cena? Sì, adesso. Ancora no, che non ci mangia. Quasi quasi, quindi farò la te, ma ci vediamo. Questo è il pane e cacio. Ma c'è il problema, ma chi pane e cacio? Cosa cazzo di loco? Così povero, non è buona. Beh, per non disturbare, mi siedo lì col cane, ho preso il pane e formaggio. No, il cane va sicura, e lo toglio mangia troppo. Io ce l'ho il cagnolino, ma il mio, già lo sai, è piccolo piccolo, si mangia un biustero al giorno. Gappa gappa. E i due pesciolini, due rattelle così là. Qua puoi usare, pensami. Due rattelle, poi vedo un'altra pentola che ha messo mia moglie adesso, però non so cosa sia, Vabbè, comunque, senza mangiare non rimaniamo qua. Oia. Fatta vedai, scoppiati. L'altro giorno a proposito del cane, ma c'è idea, si è fermato l'ascensore al piano e ha detto chi è? Mi, ma ci vediamo. È andato alla porta. Chi è che è la vedessi lui? E allora il cazzato era che non apriva la gana a farli sì. Vieni, Pippo. Troppo tolto. Troppo bello. Mi, chi c'è? Che? Già lo sento. Beh, signore Mille, dai, io mi vado a guardare qualche cucina, vado a mangiare. Buona serata a tutti, buona cena a tutti quando la fate e ci sentiamo le prossimine. Bull, saluta. No, non ve ne andate, io. E anche tu mangi a mezzanotte, io mangio là. Sì, ho pranzato alle 6:30, 7:00 e quindi a mezzanotte la cena. QTC per Natalino. Guarda che ho rispolverato quello scanner. Ti volevo chiedere se avevi un caricabatterie per batterie stilo, per pile stilo. Guardate che sono in vena i regali, Se ne tiro d'accordo, capacente te lo regali quello scanner. Carissimo, adesso sono in plano. Marco, ehi, siamo qua vedendo in 4, ho detto non ce n'è un MB più 4, un MB più 5 a 4 poli, pronto? Il mi Superstar, tipo Cobra, tipo Magnum, per esempio il Magnum Omega Force lì ci stava sulla presa destra. Tipo Midland? No, no, no, tipo Midland non va bene al DAC, non va bene, perché io c'ho il più 3 dentro l'armadio, però avevo cambiato le connessioni. Capito? Gli avevo cambiato praticamente il connettore a 5 anziché a 4. L'ho lasciato sempre così, però quella radio non ce l'ho più. Era una giovana di Gianballo. Ma vuoi che te lo regali? Io regalo tutto a tutti, a io. No, è per fare andare un po' il DAC, che col microfono normale no, non mi piace usare il DAC col microfono normale, capito? Tieni che c'è cosa in mano, io non mi piace il microfono da palma. Ho sempre usato un microfono di tavola. Era giusto per far andare un po', mi per fare qualche passaggio, Io ce l'ho qua, però lo uso spesso. Oggi vabbè, un'eccezione, ho voluto usare il microfono originale. Non originale, microfono normale da palmo, tanto per farlo lavorare. Io ti ho detto, se ce l'hai che non lo usi, se lo usi è chiaro che serve a te. Se la biglia è l'occhio.